Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese, le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, Saint Lips. Sono 98.6 per la bassa veronese e zona della Lessinia e 101.5 per Verona città e provincia, 91.5 per la zona Lago di Garda e 94.7 per la Val d'Adige. Radio RCS si può ascoltare anche attraverso lo streaming dal sito www.radiorcs.it. Dal punk inglese degli anni 60 ci spostiamo in America agli inizi degli anni 80 con il movimento denominato Paisley Underground, che recuperava le sonorità garage degli anni 60 in un contesto più moderno e che ha influenzato le alternative band di oggi. Abbiamo ascoltato i Long Riders, che dal disco State of Our Union del 1985 hanno eseguito il brano Looking for Lewis and Clark, formazione che si ispirava ai Byrds e che viene definita dai critici progenitrice dell'alternative country. Che ne pensate? Sicuramente il progetto che abbiamo appena sentito aveva radici molto rock oltre che country, nel senso manteneva un forte legame con la musica rock, nelle chitarre soprattutto. Sicuramente i Byrds, visto che Steve Griffin era un grandissimo ed è tuttora un grande fan dei Byrds, oltre al fatto che anche che ha scritto un libro su Gram Parsons. Grande amico di Richards. Charm è il titolo del vostro secondo disco. Quale significato che avete voluto dare a questa parola? Sicuramente l'eleganza, e la ricerca e il calore che rappresenta un termine del genere penso sia identificativo per il tipo di suono e di ricerca che c'è stato per l'album. 1987 vede l'uscita del secondo disco dei Thin White Rope, formazione californiana guidata dal cantante e chitarrista Guy Kaiser ed intitolato Moonhead. Da quel lavoro la canzone Not Your Fault. I know you're confused and wonder why. sonorità velvettiane che ritroviamo anche in alcune formazioni di rock alternativo odierno. Che ne dite? Che i Velvet sono la madre di tante band rock. La famosa battuta di Lou Reed era che appena uscito il loro album omonimo non avevano guadagnato molto, ma se avesse preso una percentuale da tutte le band che sono nate dopo in seguito a quell'album sarebbe diventato miliardario. Comunque ha fatto il suo successo lo stesso anche in seguito, anche certo. Vostre influenze musicali quali sono e quanto sono importanti nella scrittura delle canzoni? Personalmente, ognuno. Cioè, ognuno, insomma, ognuno ecco, vi dice la sua. Ognuno il suo. Per quanto mi riguarda, sono cresciuta con rock classico, prima di tutti Patti Smith, e poi ho sperimentato anche la parte dark metal durante, diciamo, l'adolescenza. Poi per me è stato importante, sono state importanti tutte e due, per la parte melodica, la parte più aggressiva, poi ho fatto un mix, diciamo, poi prima di tutto per la composizione do spazio a quello che mi viene istintivo, ecco. Altri? Passo la parola. Io maggiormente tutta la produzione rock viene dall'Inghilterra, partendo quindi da Liverpool e poi girovagando in giro per le altre città. I Pixies, l'indie rock americano anni 90, è stato una fonte importante per quello che è sia i miei ascolti che per la scrittura, e poi ovviamente il rock classico come Beatles, Stones, Zeppelin, Bowie e company. Vediamo allora la seconda parte con gli R.E.M., la band di Michael Stipe e Peter Buck, oggi ai Vertici Mondiali. Pubblica nel 1984 il secondo disco Reckoning, che vede la band di Athens ancora alle prese con un sound acerbo ma incisivo. Da quel disco la canzone Harbor Coat. Poi sarà la volta di sentire sei canzoni tratte dal disco dei Saint Lips da titolo Charm. Rimanete in ascolto. All that you got. Metal shields on.